piano. Di Enrico Ruggeri. Oggi si viaggia nel tempo, oggi raccontiamo una storia straordinaria, andiamo alle origini di quello che è lo sport più amato dagli italiani, il calcio, però qui parliamo di un altro calcio, andiamo in un'epoca nella quale il pallone era fatto di stracci, le scarpe si aggiustavano con ago e filo, gli scudetti dei calciatori venivano ricamati a mano dalle loro madri, è un calcio che si giocava sui campi senza erba, dove c'erano giornate all'insegna del rispetto reciproco, con stile cavalleresco, e poi magari altre giornate nelle quali c'erano risse che coinvolgevano giocatori, allenatori e arbitri senza 13 telecamere che studiavano e spiavano ogni gesto. Un calcio ricco di poesia. Oggi di quel calcio non c'è più traccia, se non sulla porta d'ingresso dello stadio di Milano, dove si legge a chiare lettere il nome e il cognome del protagonista di oggi, il più grande giocatore che l'Italia abbia mai avuto, Giuseppe Meazza. Sono nato a Milano, zona Porta Romana, il 23 agosto 1910, secondo di due figli. Mio papà Annibale partì per la guerra, la prima guerra mondiale, quando io avevo solo 5 anni. Purtroppo non tornò più, e così mia mamma Ersilia dovette assumersi tutte le responsabilità finanziarie ed educative della famiglia. Nel 1916 ci trasferimmo nel quartiere di Porta Vittoria e io iniziai la scuola elementare. Non lo ricordo come un periodo particolarmente felice, perché le difficoltà erano tante. La mamma lavorava in un opificio, ma la situazione era comunque dura. È una Milano molto diversa da quella di oggi, la Milano dei tramacavalli, dei carri che si facevano largo tra i bambini che giocavano per strada, della darsena di San Marco dove le donne andavano a lavare i panni, la Milano che parlava milanese. Era la Milano in cui nei campi si giocava a pallone, non c'erano i campi rom, per esempio, dove i fiori non cercava di venderteli un piagnucolone, ma magari c'erano dei bambini che venivano adottati dal resto della città, le fiammiferaie, i venditori di qualcosa. È la Milano dei treni a vapore che arrivano alla stazione, che non è quella di oggi. È la Milano del Tabarin, la Milano senza spacciatori, la Milano dello stadio di Via Goldoni, perché l'Inter giocava in Via Goldoni. Oggi siamo in centro, tribune di legno, la folla a calcare a bordo campo, insomma una città che era come un paese di provincia un po' più grande degli altri, dove gli edifici più alti erano i campanili delle chiese e la Madonnina dominava la città dalla guglia più alta del Duomo. Giuseppe Meazza è un ragazzino di 12 anni quando assiste per la prima volta a una partita di campionato. È un amore a prima vista per un bambino che, per fortuna, ha una mamma che lo appoggia in questa sua passione, anche se a quei tempi diventare calciatore non era la rivalsa sociale, non risolveva la vita, ma la madre crede comunque in lui. Quando iniziai a giocare a pallone, i miei compagni erano quasi tutti più grandi di me. Io, tra l'altro, ero così mingherlino che sembravo più piccolo anche dei coetanei. Con questi amici giravo su tutti i prati della periferia della città e spesso ci spingevamo addirittura lungo la scarpata della ferrovia. Certo, non erano veri campi da gioco. Le porte le segnavamo con due giacche o con due mattoni, ma almeno non era più la strada asfaltata. E sotto i piedi, correndo, si calpestava l'erba. E questi sono frammenti del libro Il mio nome è Giuseppe Meazza, scritto da Marco Pedrazzini e Federico Giaselli Meazza, nipote di Giuseppe. Per il nostro futuro campione arriva anche il tempo per giocare sui veri campi da gioco, perché quando lui ha 14 anni viene notato da un giocatore dell'Inter, Luigi Ciminaghi, lo porta a un provino per entrare nei boys. I boys allora non erano i tifosi, erano la giovanile, insomma la vita di Peppin, come lo chiamano tutti, cambia. Lui parte da terzino, poi diventa mezzala, però si capisce subito che è uno di quei giocatori in grado di far bene in qualsiasi ruolo. Nel 26 la squadra giovanile vince il campionato lombardo e dalla prima squadra si comincia a guardare con interesse a questo ragazzino veloce, abile, con un controllo di palla ottimo, capace di scartare gli avversari, di andare a riconquistare il pallone, un ragazzino con la grinta e col carattere di un adulto. Allenare l'Inter c'è un grande allenatore, Arpad Weiss, che decide di portare sulla panchina dell'Inter anche Giuseppe Meazza. Si gioca la Coppa Volta, che era un torneo precampionato. L'Inter perse la sfida del mattino contro i padroni di casa e per di più si infortunò Armando Castellazzi, che avrebbe dovuto giocare centravanti. Dovevamo così ripresentarci il pomeriggio per la sfida con l'Unione Sportiva Milanese. Ci giocavamo il terzo posto. A mezzogiorno a tavola, Conti si rivolse a Weiss. «Mister, chi gioca oggi al centro dell'attacco?» Lui rispose con un sorriso indicando me. «Gioca quel ragazzo là, il Peppino». «Quello», commentò Conti sorpreso. «Ma se l'è un Balilla?» Eh sì, intanto Balilla ai tempi voleva dire ragazzino, e poi va notato insomma il fatto che questo era un torneo in cui si giocavano le semifinali di mattina e la finale al pomeriggio, ed erano in 13-14. Oggi squadre di 35 giocatori si lamentano perché magari il mercoledì devono fare un turno infrasettimanale. E questa è l'Inter di Pietro Boni, Conti, Alemandi, Rivolta, Moretti, Degani, Di Fulvio, Bernardini. Si scherza con i ragazzini, anche se tutti sanno già che a quell'epoca, a 16 anni, sei quasi un uomo, sei già pronto per lavorare. Peppino Meazza non si lascia intimidire però da quelli più grandi e vince l'Inter la partita 6-1. Lui fa vedere a tutti di cosa è capace, segna 2 gol. La Gazzetta dello Sport lo definisce una riservetta di qualità, ma Arpad Weiss ha capito di avere tra le mani un diamante grezzo, un campione vero. Il falco e il gabbiano. Sono anni di cambiamenti anche in campo sportivo. L'Inter, che si chiamava Internazionale perché a differenza del Milan voleva giocare con giocatori di tutto il mondo, in realtà ha un nome internazionale che può rimandare all'Internazionale Socialista, e quindi insomma in quegli anni la cosa non era ovviamente gradita, e quindi l'Inter cambia nome in Ambrosiana. E poi ci sono altri cambiamenti, soprattutto per il nostro protagonista Giuseppe Meazza, che nel campionato 1929-1930 porta l'Inter a vincere il campionato di Serie A appena istituito, il campionato a girone unico, e segna 31 reti, quindi è capocannoniere. Pensate che non ha ancora 20 anni, ormai tutti si sono accorti della sua classe, della sua velocità, della sua forza, della sua abilità nel leggere il gioco. E poi a controllo di palla superiore a tutti, e insomma lui non fa altro che mettere in pratica a modo suo le cose imparate nei tanti pomeriggi trascorsi per strada con gli amici, sempre a inseguire un pallone. Avevo un tiro preciso e potente, ma la mia specialità era il dribbling. Non mi piaceva scartare l'avversario liberandomi della palla. Quello che mi divertiva era sfidarlo, attirarlo verso di me e stuzzicarlo con una, due, tre finte. Insomma, mi piaceva tenere la palla fra i piedi il più a lungo possibile. Anche quando mi trovavo a tu per tu con il portiere, dopo aver superato la difesa, non sparavo mai in porta. Facevo uscire l'estremo difensore, lo dribblavo e poi entravo in rete camminando, palla al piede. La stampa quello lo definisce il gol a invito. Meazza si trova davanti al portiere, lo sfida, lo invita all'uscita con la mano e poi lo beffa scartandolo e andando in rete. Forse una giocata che nel calcio di oggi sarebbe impossibile, ci riusciva solo Ronaldo, ma Giuseppe Meazza è un campione sopra le righe, è uno che vuole addomesticare il pallone, accarezzarlo come se per lui questa fosse la cosa più semplice del mondo. I giornali parlano di incubo Meazza, il pericolo per tutti i difensori. Nel campionato 35-36 Meazza è ancora capocannoniere. 2 anni dopo, nel campionato 37-38, la squadra nerazzurra, che nel frattempo è tornata parzialmente al nome originale perché si chiama Ambrosiana Inter, conquista il suo secondo scudetto. Meazza ormai è un campione, è molto popolare, diventa testimonial per alcune pubblicità, parliamo di giornali, naturalmente non c'era la televisione, ma anche questo allora era un indice di grandissima popolarità. Credo di essere stato uno dei primi atleti in Italia chiamato a reclamizzare prodotti. Infatti venni ingaggiato per fare la pubblicità di una brillantina. La popolarità non è una cosa facile da gestire, e credo che di Peppino Meazza tutto si possa dire, tranne che abbia avuto una vita esente da divertimenti e da qualche vizio, fra cui le tante sigarette fumate. Beh, nel calcio di oggi la vita mondana, le discoteche, i social, le fidanzate, le mogli, i procuratori, i selfie, sono cose all'ordine del giorno, sono diventati parte integrante del calcio. Una volta era diverso, negli anni 30 c'erano tensioni sociali notevoli e l'odore della guerra cominciava a sentirsi, anche se ancora da lontano. Insomma, non c'era spazio per i vizi e per le distrazioni nella vita di un calciatore, tranne che per qualcuno. Se capitava una situazione che distraeva il calciatore dagli allenamenti, le conseguenze erano veramente pesanti in quegli anni. Meazza ne sa qualcosa, lui è un campione, magari si potrebbe chiudere un occhio per lui, però un sabato sera viene trascinato in un tabaren. I tabaren erano, diciamo, i night, i locali notturni di una volta. Si balla, si diverte, si fa tardi, si rimorchia e il giorno dopo c'è la partita. E sentite come racconta lo stesso Meazza un episodio in una vecchia intervista. È capitato una volta, come può capitare a tutti. Io di sabato, per esempio, non uscivo mai di casa. Un sabato sera sono uscito perché un mio amico dava addio alla giovinezza. Non potevo non andare. So che ho fatto tardi, insomma, il giorno dopo c'era una partita, io mi sono addormentato e mi sono svegliato verso le 2. La partita cominciava alle 2:30. Fortuna che abitavo vicino all'arena e sono arrivato lì tutto trafelato. Ero svelto nel cambiarmi, in 5 minuti mi sono cambiato, mi sono presentato in campo, naturalmente sentivo i dirigenti che dicevano: beh, dopo raggiamo i conti e vedremo come è andata, dove va, cosa ha fatto questo qui, dove è stato fino adesso. Per fortuna mia, durante i primi minuti della partita lì, segnai 3 gol. Così tutto è andato a posto. Meno male. Sì, Meazza si fa perdonare tutto a suon di gol. E sempre sulle prime pagine dei giornali sportivi c'è sempre qualcosa da commentare su di lui. Grandi giocate, le botte ricevute dai difensori, ma le botte che in quegli anni si restituivano al mittente. Ne ho presi abbastanza. Credo che sia stato uno dei giocatori più tartassati. Anzi, mi ricordo che la mia povera mamma alla domenica andava sempre in Duomo a accendere una candela perché non mi facessero del male. Delle volte ho reagito a furia di pigliarne e qualche volta si reagisce. Una volta, per esempio, ho buttato della palta in faccia a un giocatore e l'arbitro mi ha espulso. Un'altra volta ho dato un pugno a un giocatore senza che l'arbitro mi avesse mandato fuori il campo. Sono andato via io, naturalmente ho pagato, perché essendo anche capitano ho pagato con la squalifica. Pensate di che calcio stiamo parlando, cioè Meazza dà un pugno a un difensore, l'arbitro non lo vede ma lui è capitano e quindi si autopunisce ed esce, e questa si riassume in una parola: onore. Per noi tutto questo oggi è fantascienza. Comunque Meazza è considerato un eroe della patria, non è più solo la bandiera dell'ambrosiana Inter, è diventato un eroe anche per le sue grandi vittorie con la nazionale di Vittorio Pozzo. Sono dei colpi d'ala che lo stanno consacrando tra i migliori del mondo e il bello deve ancora venire. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Peppin Meazza, Giuseppe Meazza, detto il Balilla, l'uomo a cui oggi è intitolato lo stadio di San Siro, l'eroe dell'Inter, dell'ambrosiana Inter, che nel 1946 torna alla denominazione originale, cioè torna a chiamarsi Inter o Internazionale. Un giocatore completo, capace di giocare in qualsiasi ruolo, ma con l'istinto dell'attaccante. Un giocatore che diventa idolo dei tifosi nerazzurri, ma che dal 1930 diventa l'idolo di tutti gli italiani. Veste la maglia azzurra della nazionale di Vittorio Pozzo. La mia avventura in nazionale ebbe inizio nel 1930 e quell'anno, considerato anche lo scudetto vinto con l'Inter, fu davvero speciale. Vittorio Pozzo, il commissario tecnico, mi teneva d'occhio da mesi. Io lo sapevo, ma fingevo di ignorarlo, mentendo anche a me stesso. Ma solo fino a quando non fui convocato in occasione della partita contro la Svizzera, a Roma, il 9 febbraio. Indossare la maglia azzurra a soli 19 anni e mezzo non è semplice. Beh, la tensione è alta, Merza non è certo il tipo che si fa intimidire, però all'inizio non è dei migliori, lui sembra bloccato, il pubblico rumoreggia, sembra che le cose si mettano male, siamo fermi sul 2-2 e a questo punto accade qualcosa di magico, è il colpo d'ala del 19enne Peppino, che la stampa chiama il Balilla. Lui in due minuti segna due gol, finale 4-2 per l'Italia. Pozzo ha avuto un grande intuito a schierarlo in campo, il diamante grezzo è diventato il più grande campione del calcio italiano. Ma la partita che lo consacra è la sfida con l'Ungheria l'11 maggio 1930, un incontro di Coppa Internazionale, una specie di campionato europeo. Bisogna ricordare che in quegli anni l'Ungheria era veramente una nazione leader nel calcio, la scuola ungherese era vista con timore, con rispetto. Bene, in quella partita Meazza segna una tripletta, il terzo è un gol alla Meazza, a invito, col portiere che viene scartato da fermo, e la partita finisce 5-0, e da quel momento anche la stampa internazionale comincia a parlare di questa Italia che è forte, è compatta, è capace di sconfiggere anche gli avversari più forti, e sta per arrivare la Coppa del Mondo che nel 34 si giocherà in Italia. Seconda edizione c'era stata quella del 1930 organizzata e vinta dall'Uruguay, ma l'Italia non aveva partecipato. Adesso è invece bisogna giocare e vincere. Ci sono due blocchi, come si dice oggi, quello dell'Ambrosiana Inter e quello della Juventus. La Juve ha appena vinto il campionato con qualche polemica e quindi c'è un po' di tensione. Ci guardavamo un po' incagnesco e il clima non era sereno. Pozzo, che la sapeva lunga, non entrò mai in argomento. Ma una sera, dopo cena, ci convocò nella sua stanzetta e lì cominciò la predica. Il campionato era finito e occorreva dimenticare, disse in sostanza. Adesso, nel momento in cui era in gioco il prestigio del calcio italiano, dovevamo stringerci compatti e batterci col cuore in gola. Pozzo si comporta come un padre, ma anche come un condottiero, riesce a motivare il suo esercito eliminando le rivalità. L'Italia inizia, fa bene, nei quarti di finale incontra la Spagna e il portiere della Spagna, il mitico Zamora, l'unico a cui Meazza non è mai riuscito a fare gol. Avevo ricevuto la palla sulla destra, avevo scartato un paio di avversari, poi un terzo e infine un quarto. Ero in area di rigore. Davanti a me soltanto Zamora. Ormai ero sicuro di batterlo. Avrei avuto ragione di lui e sarei entrato con il pallone nella sua porta. Lui avanzò e i 7 metri della porta divennero la metà. Io non mi decidevo a tirare e avanzai ancora, ma quell'attimo di esitazione mi fu fatale. Al momento di concludere mi trovai senza il pallone fra i piedi. Zamora me lo aveva portato via con una tranquillità assolutamente fuori dal comune. E beh, Zamora era un grandissimo. Comunque la partita finisce in pari e all'epoca non esistono i calci di rigori, la partita va rigiocata e questa volta l'Italia vince 1-0, poi batte in semifinale l'Austria e il 10 giugno 1934 l'Italia batte 2-1 la Cecoslovacchia e si laurea campione del mondo. Dopo 4 anni si gioca di nuovo il mondiale, questa volta in Francia. Siamo nel 1938, quindi le tensioni in Europa stanno per esplodere. L'Italia ha vinto la Coppa Internazionale nel 1935. Meazza è ancora una volta il capitano di quella nazionale. Solo 2 giocatori sono rimasti, Meazza e Ferrari, rispetto alla nazionale di 4 anni prima. La formazione è una poesia: Olivieri, Foni, Rava, Ser Antonio, Andreolo, Locatelli, Biavati, Meazza, Piola, Ferrari, Colaussi. È una squadra che è ancora più forte forse di quella del 34 che giocava in casa e che i maligni dicono sia stata anche un po' favorita. Questa volta si gioca all'estero in un posto che è abbastanza ostile all'Italia per ragioni, come dire, storico-politiche, e c'è la semifinale Italia-Brasile, il Brasile di Leonidas, che però in quella partita i brasiliani, con un po' di prosopopea, lasciano a riposo per farlo giocare in finale. Bene, la gufata viene pagata dai brasiliani perché l'Italia vince 2-1, il 2-0 lo segna proprio Meazza su un calcio di rigore storico, perché è un rigore che avrà un piccolo contrattempo. Tocca a te, Peppino, mi dissi mentre i compagni mi guardavano senza parlare. Sapevo che da quel rigore dipendeva il nostro futuro. Vado sul dischetto per battere, ma con un secco tac sento l'elastico dei calzoncini che improvvisamente si spezza. Commossa fulminea, riesco a trattenerli con una mano e dopo un attimo di esitazione prendo posizione fissando il portiere Walter piazzato al centro della porta. Finto a sinistra e la palla si infila dolce e tranquilla sulla sua destra. Questo rigore è l'ultimo gol che Meazza segna con la maglia azzurra. La finale del 19 giugno si gioca a Parigi, l'avversario è l'Ungheria. E come sempre, vedete, l'Ungheria è sempre ai vertici. La partita finisce 4-2, segnano due volte Colaussi e due volte Piola. Vince ancora la nazionale di Pozzo e questa volta viene affermata la supremazia sicuramente su tutti gli altri, e cancellando anche le piccole ombre della finale del 34. E questo è il gruppo di giocatori forse più forti che l'Italia abbia mai avuto. E poi Meazza conquista il quarto scudetto dell'Inter, con 20 gol diventa capocannoniere, però i tempi per l'Italia sono difficili, è arrivata la guerra, il campionato verrà sospeso. E poi per Meazza c'è anche un periodo complicato dal punto di vista fisico, perché lui soffre del piede gelato, problemi di circolazione che tolgono sensibilità, passa da un medico all'altro, prova diverse terapie, i giornali dell'epoca lo ritraggono spesso intento a fare sabbiature in spiaggia, impacchi, massaggi, addirittura entra in gioco una maga, una certa Amelia di Genova che cerca di risolvere il problema, ovviamente senza riuscirci. Poi un anziano medico sportivo trova il problema, l'osso del piede che schiaccia un'arteria che blocca la circolazione. Meazza deve operarsi, riesce a recuperare la forma che sembrava definitivamente perduta. Dopo gli anni di sospensione del campionato si ricomincia, ma Meazza lascia l'Inter, va a giocare nel Milan e poi alla Juve, e lui nelle interviste dirà che si è vergognato di questo gesto, che invece oggi è più che normale. Poi va a Varese, poi va all'Atalanta, recupera lo stato di forma, gli anni naturalmente cominciano a farsi sentire, ancora una volta torna all'Inter nel campionato 46-47, è un Inter in grande difficoltà e che sta lottando per evitare la retrocessione, e lui è allenatore e giocatore, riesce in extremis a salvare i nerazzurri, però ormai si rende conto che bisogna lasciare spazio ai più giovani, a fine campionato dà l'addio al calcio. E poi si dedica alla carriera di allenatore, è il primo allenatore italiano che va all'estero, va in Turchia al Beşiktaş, poi collabora con la Gazzetta dello Sport e poi torna ancora nella sua Inter, fa l'osservatore nelle giovanili e scopre un giovane talento che si chiama Sandro Mazzola. Poi il 21 agosto 1979, a 69 anni, Meazza muore lontano dai riflettori, ucciso da una lunga malattia, e di lui rimangono le parole indimenticabili di Gianni Brera, che ricorda un campione che nessuno in Italia è riuscito a eguagliare. Grandi giocatori esistevano al mondo, magari più tosti e continui di lui, però non pareva a noi che si potesse andare oltre le sue invenzioni improvvise. Gli scatti geniali, i dribbling perentori e tuttavia mai irridenti, le fughe solitarie verso la sua smarrita vittima di sempre, il portiere avversario. Il 2 marzo 1980 lo stadio di San Siro viene intitolato a lui, a Giuseppe Meazza, un campione che nessun altro giocatore italiano riuscirà mai a eguagliare, una vita piena di colpi d'ala tra genio e sregolatezza, come prevede il copione dei grandi del calcio. E noi vi aspettiamo con altre storie, vi chiediamo di segnalare via mail al falcodelgabbiano@radio24.it delle storie che voi volete che noi si racconti, e poi interagite con me sul sito di Radio 24, sui miei social, sui nostri social, insomma lo sapete, se mi cercate mi trovate. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Dodo Chipinti. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.